24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Io ho detto ai giovani del PD: stracciate quella cazzo di tessera e venite dentro un movimento di cittadini. Cazzo, portiamo, abbiamo le stesse idee. L'acqua pubblica, la scuola pubblica, la sanità pubblica, abbiamo le stesse cose, ma andiamo via. Ci prova con l'appello a quelli del PD: stracciate la tessera voi del PD e venite nel Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte Renzi che gli dice: siete finiti, siete ridicoli, pensate solo agli scontrini. Ecco, inizia così o finisce così la settimana scorsa, inizia una nuova. Eccoci qua, siamo con Peter Bescapè, oggi unico Commander in Chief, ti direbbe in America, Commander in Chief, lì solo al comando, dietro alla sua regia. Che dire, stare con noi fino alle 9? O poi c'è Renzi, Io non so come fare a dirgli che la Champions League gliel'abbiamo rubata ieri. Mamma mia, ragazzi, come facciamo a dirgli? Lo so, lo saluto subito. Anzi, apriamo il Parlamento. Come faccio a dirglielo? Mamma mia, come faccio a dirglielo? Il caffè volentieri è tutto. Come faccio a dirglielo? Alessandro Giglioli, buongiorno. Buongiorno, non ho capito cosa devi dire a Renzi. Che gli abbiamo rubato la Champions League ieri. Mamma mia, ragazzi. E come faccio a dirglielo? Vuoi venire anche tu alle 8:30? Che no, viene? Guarda, io di calcio meglio che non parli. Ma quello si arrabbia. Bimbo alieno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come faccio a dirglielo io? Mamma mia, cioè alle 8:30 c'è Matteo Renzi, torna in radio per la prima volta dopo un'assenza lunghissima, lo fa qui a 24 mattino, e come faccio a dirgli che c'è? Ma tu sei così bravo a divagare, tirare fuori la stiamo a Bucarest quando ti fa comodo. Ah, vabbè, dai, diremo, era rigore ieri, questa è la mia versione, era rigore su Balotelli, sacrosanto sindaco, sacrosanto. Guarda che sei già sveglio, ti tira il pacco e non arriva in radio. Porca miseria, è vero, non risponde più, no. Sindaco, stiamo scherzando, la Fiorentina è nettamente superiore al Milan, giocato meglio quest'anno, poi le cose si sa come vanno, uno può anche vincere, può anche perdere quando pensa di aver già vinto, Questa mi ricorda qualcosa, Giglioli, non lo so, sì, abbastanza. Adesso ci farò le larghe intese. Infatti. Vabbè, buongiorno a tutti. Allora, io mi sono svegliato così e subito l'ho twittato. Cari italiani, avete voluto indietro l'IMU? Giglioli, hai voluto indietro l'IMU? Beh, non personalmente, sì, diciamo, vabbè, però. E mo beccati l'aumento dell'IVA. Così, non è che si può avere tutto, A luglio aumenta anche l'IVA. Ormai è abbastanza certo, insomma. Bimbo alieno, adesso ci fai i calcoli. Quanto paghiamo in media famiglia? È vero, 130 euro più o meno, così? Allora, innanzutto dovremmo fare una piccola digressione sulla presa in giro del discorso IMU, no? Perché al di là del fatto che ce la rimandano, ma no, è che le dici che allora ce la rimandano in avanti con il rischio peperonata, nel senso che poi si riproponga in un secondo tempo a settembre. L'IMU peperonata, sì, effettivamente. Ci finanziano la cassa integrazione, attenzione, con i fondi per la produttività, cioè noi abbiamo dei problemi di occupazione dovuti al fatto che le nostre aziende non sono abbastanza produttive. Che cosa facciamo? Finanziamo l'effetto di questa cosa, cioè la cassa integrazione per tutelare quei lavoratori che sono rimasti in difficoltà con i fondi per la produttività del 2014. Fantastico. Ma la classica è ma scusa, il gioco delle tre carte, tu non l'hai mai visto fare con quelli che poi ti rubano. Sposti e poi alla fine perdi. Avevamo 4 miliardi a disposizione per tagliare l'IMU, che sono, lo ribadiamo per l'ennesima volta, 113 euro a famiglia in media, perché stiamo togliendo le case di lusso, sì. Quindi le caramelle ci stanno dando. Se avevamo questi fondi qua, invece di togliere un miliardo al fondo produttività per dare giustamente il finanziamento alla cassa integrazione, e che ne so, 3 miliardi di taglio al cuneo fiscale, non era forse meglio? Lo so, qua, Giglioli, qua c'è Bimbo alieno che c'ha le ricette economiche di prima mattina. No, Bimbo alieno, con cui spesso sono in disaccordo, fa un'analisi secondo me molto ovvia, cioè questa roba dell'IMU era una promessa elettorale. Guarda che siamo ai limiti della Costituzione, perché la Costituzione dice che non si fanno referendum in materia fiscale, di fatto il 24 febbraio è stato una specie di referendum in materia fiscale, volete o no togliere l'IMU? Perché tutto su quello si è basata la campagna elettorale del PD. E adesso tolgo. Io faccio notare solo due cose brevissime. Proprio. La prima è che chi ha meno di 30-35 anni la casa non fa. Quindi è una manovra che in qualche modo va... Classista, dai, dillo, è classista. No, beh, generazionale. Cioè è una... Però magari ce l'hanno i genitori di questi ragazzi che studiano ancora. Beh, insomma, si spera che a 35 anni uno sia un attimino fuori di casa. Comunque è fuori di casa, è in co-housing, probabilmente in nero, e se ne stra... La seconda cosa è che io sabato, io abito... Zona San Giovanni, Roma. Sì. Sabato sono sceso a vedere la manifestazione della FIOM. Sì. A parte i militanti più accesi, io ho visto delle facce, ragazzi. Ho visto e ho parlato con delle lì. Incazzati. No, magari fossero stati incazzati. Io ho visto delle facce disperate. Io ho visto gente che non mi. Cioè, quando poi senti che uno si dà fuoco, si butta dal ponte, perde il senno e fa delle follie. Cioè, altro che disagio sociale. Mi rendo conto che nella mia vita abituale io evidentemente sono casta, sono un privilegiato, perché frequento prevalentemente persone che in qualche modo se la cavano. Mm-hmm. E questo bagno in persone disperate mi ha fatto tornare a casa veramente a pezzi. No, ma tra l'altro guarda se il piano può essere questo, cioè no, bimbo alieno, seguimi, cioè, già io faccio fatica a seguire te a volte, ma adesso segui tu me. L'IMU la sospendiamo e si rischia di arrivare tipo peperonata. Intanto aumentiamo l'IVA e poi forse non ce la facciamo entro agosto a fare la riforma, quella che vuole Brunetta, che vuole track. E alla peperonata si ripropone e ci becchiamo l'IVA e ci ritorna l'IMU. Certo. No, come sì. Certo, no, di no. Ma come certo? Tu devi gettare certo acqua sul fuoco, mica benzina. Mica che prendete le elezioni, no, bimbo alieno, così prendi zero voti, tu devi promettere agli italiani che va. Tanto io non mi candido. Certo che esiste questo rischio. Io confido che ad agosto, se hanno speso la parola in questo modo, una riforma dell'IMU, una redistribuzione del prelievo IMU verrà studiato, perché troverei molto strano che da qui ad agosto trovino il modo di rimangiarsi quanto detto e quanto strombazzato, perché poi ricordiamoci anche i festeggiamenti che venerdì sera abbiamo dovuto sentire nei vari telegiornali dei vari esponenti, che merito mio, merito suo, merito nostro. Te lo faccio subito sentire. Abbiamo fatto un gol clamoroso. Ti faccio subito sentire. Intanto guarda in TV, guarda, l'hai visto? L'hai visto in TV, bimbo alieno? L'hai visto adesso? Che cosa? Era rigore. No, dai, le ha tenuto la maglietta, l'ho visto su Sky, l'hanno fatto... Alessandro, la stagione del rigore è finita, Cribio. Dopo glielo dico a Renzi, non mi interessa. Era rigore, c'era la maglietta tirata. Berlusconi dopo, tra l'altro sentite, sull'IMU e sull'IVA. La sinistra era sicura di vincere e invece deve fare i conti con il nostro programma. Ve lo ricordo, abolizione dell'IMU è intanto il nostro primo successo e che già a giugno non dovremmo più pagarla. Sì. L'IVA? La tassa che deprime i consumi, l'IVA? Non deve aumentare. Ma come non deve aumentare? Ha detto non deve aumentare, invece aumenterà. E vabbè, insomma, comunque, attenzione però, perché sentiamo un attimo. Senti. Balotelli in rete! Vedi che era rigore, era gol! La sto rivedendo, perché poi dopo, tra poco c'è, secondo me... Li vedo carichi, tra un po' mi sa che segna il 2-1. Vabbè, ma come Giglioli ha detto, l'IMU ovviamente è una roba nostra, abbiamo vinto, eccetera. E poi l'IVA non deve, adesso mica si riaprirà il fronte dell'IVA, non aumenti, non scatti l'IVA, se no faccia anche del governo. La cosa che a me veramente fa un po' sorridere, se posso aggiungere casino al casino, è che in realtà non è vero che la coperta è troppo corta. Cioè non è vero che mancano i soldi ci sono, solo che vengono spesi per altre cose di cui non si parla. Cioè quando noi sentiamo che ci sono 22 miliardi di euro, dico 22 miliardi di euro, che vanno al programma Forza NEC, che è un programma militare, e di questa cosa non parlare, perché in Italia poi ci si focalizza attorno a vicende simboliche, come gli F-35, del PDL, gli F-35, che costano una follia, non funzionano, vengono giù quando piove, tutto quello che vuoi. Però io mi chiedo, ma me lo chiedo seriamente da un mese in disperata solitudine, perché il programma Forza Ne, che costa 22 miliardi di euro e che, nel quale ci stanno sia l'IVA sia l'IMU, abbondantemente. Ma che programma è? Cioè, sembra che sai tutto. È un programma di digitalizzazione della satellitare delle nostre forze armate, di cui abbiamo fortemente bisogno, forse secondo ovviamente i nostri generali, delle guerre che facciamo in giro per il mondo, in Iraq, in Afghanistan. Vabbè, facciamo anche le missioni di... Le missioni. Ah, certo, tu le chiami guerre, non ho capito la polemica. Chiama, le missioni, ma è uguale. Non è che io le chiamo guerre, a occhio sono guerre. Sì, a occhio. Ci sono anche delle parti di missioni di cosiddette, cos'è? Pacificazione, peacekeeping. Eccolo. Vabbè, allora vi devo dire questa, però poi l'approfondiamo dopo il traffico. Il sindaco di New York, Bloomberg, ha fatto la versione bamboccioni, ha detto, giovani studenti, che non siete neanche tanto brillanti se andate all'università, smettetela di andare all'università e fate gli idraulici. Che conviene molto meglio fare gli idraulici piuttosto che essere dei mediocri studenti universitari. Bimbo Alieno, 10 secondi prima del traffico, intanto flash. Ti piace come idea? Ti piace come slogan? Lo registro solo come ulteriore segnale del fatto che non è l'Europa che sta assomigliando sempre di più agli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti che assomigliano sempre di più all'Europa. C'è una vicenda tipo bamboccioni. Bamboccioni, smettete di fare i bamboccioni. Vabbè, ma ripartiamo da qui, dopo le informazioni sul traffico, la nostra segreteria telefonica. Siamo con Bimbo Alieno e Alessandro Giglioli. 24 mattino. Se la prostituzione è diventata prima lavoro e poi anche arte, perché non premiare il mecenate che ha aiutato con le sue cene tanti giovani aspiranti e le loro famiglie trepidanti ad entrare nel mondo del lavoro e dell'arte? Buongiorno Alessandro, per tutti quelli che telefonano e ce l'hanno con i lavoratori pubblici. No, tutta l'erba un fascio, io sono una dipendente pubblica, mi faccio un mazzo tutto il giorno, cerco anche di riparare le cazzate del mio primario, dopodiché non ho aumenti da 3 anni e quest'anno vogliono anche togliermi 170 euro al mese. Quindi non tutti i dipendenti pubblici non fanno nulla. Mila, buongiorno, diglielo tu ai nostri politici perché noi non possiamo. Digli che i loro stipendi se li tagliassero per farci le strade, perché camminiamo su strade piene di buche. La mattina per andare al lavoro è un disastro. I nostri soldi li spendano per darci i nostri servizi. Capito Milan? Diglielo perché non se ne può più. Buongiorno, la pace sia con noi. Sono Giancarlo Ravasio. Sono un biblista. Ho appena fatto una scoperta sorprendente su antiche pergamene trascurate per secoli. Il Dio della pace e dell'amore ha mandato agli uomini 2 figli e non uno soltanto come finora creduto. Il primo, Gesù, capace di trasformare l'acqua in vino. Il secondo, Silvio, capace di trasformare le donne in escort e dedito alle feste e ai transit. Fiat Voluntas Ford. Vabbè. Questa è la nostra segreteria telefonica 02 com'è? 4652 4492. Se volete lasciare un messaggio, poi noi li mandiamo in onda. Li selezioniamo accuratamente, Bimbo Alieno, accuratamente. Sì, no? Soprattutto sì, i matti, soprattutto. C'è un setaccio con le maglie molto fitte. Dedito, non ho capito, dedito a trasformare le donne in escort, ho capito bene? Sì, ma non lo so, poi e non dedito a trasformare i rigori in gol, perché per quello ci è pensato Balotelli. Era rigorissimo su Balotelli. Allora, Giglioli, che ne pensi di questo sindaco di New York, Bloomberg? Ha detto una cosa di buon senso o ha detto una cavolata? Di dire ai ragazzi che magari vi arrabattate tra l'università, un po' a fatica, eccetera, fate gli idraulici, fate una cosa pratica, fate un lavoro che poi vi porterà magari qualcosa, no? Dei danè, dei dollars. Ma diciamo che forse in America se lo possono anche permettere di dire queste cazzate, nel senso che una cazzata clamorosa, nel senso che comunque avendo centri come la Silicon Valley, università fra le più quotate nel mondo in materia di ricerca, eccetera, ci si può anche permettere sta roba. da noi dove la ricerca è zero, lo sviluppo è zero. Ma ha detto una cosa di buon senso, cioè ha detto invece delle lauree inutili. Perché se tu in un paese non investi nell'istruzione, se tu non investi nella ricerca, se tu non investi nel miglioramento complessivo della conoscenza, questo paese è destinato inevitabilmente. Ma io sono d'accordo con te, però il rischio. Ma sono d'accordo, allora, però qual è il rischio, Alessandro? È il contrario del buon senso. Tu magari salvi il singolo idraulico in questo momento, che guadagnerà più di un professore universitario, ma complessivamente non fai il bene della società, ci fai il suo male perché Alessandro, ma quanti corsi universitari inutili, diciamolo francamente, inutili e giovani che credono a corsi universitari che non daranno alcuno sbocco nel futuro lavorativo ci sono in Italia? E magari a questo si riferiva Bloomberg, invece di fare Bloomberg si rivolgesse ai corsi Anche ai ragazzi che magari fanno l'università che Bloomberg secondo me è troppo di sinistra rispetto a Giglioli. È troppo di sinistra rispetto a Giglioli. Ma no, ma tu pensa a quanto di perché parlava della dignità di qualunque tipo di lavoro. Sì. Ma no, ma più che altro diceva. La cultura per fare PIL, guarda, pensa all'archeologia, pensa ai beni culturali che noi abbiamo, artistici. Chiaramente l'Italia è l'Arabia Saudita del. Cosa fanno molti di quei ragazzi? Cosa fanno molti di quei ragazzi che studiano quello in Italia? Sono disoccupati. Sì, ma io non sto dicendo che l'università italiana è la migliore del mondo, che Dio mi impedisca di dire una sciocchezza del genere, ma è evidente che se noi vogliamo far uscire questo paese dal famoso declino, dal famoso rincoglionimento, e quindi nostra crescita deve puntare sulla conoscenza. Ma sì, ma forse si riferiva, banalmente, si riferiva, non so, Bibalina, a tutti quei giovani che un po' vivacchiano, vivono magari all'università, ci saranno anche in America, come un modo per passare un po' 5 anni in cui studiano. Una proposta, diciamo, normativa o un segnale di come dire, svalutazione del titolo di studio, del percorso di studi in generale, ma così magari un rammentare che anche i lavori umili hanno una loro dignità e non bisogna per forza così qua. Più che umili, proprio concreti, cioè piuttosto che perdere tempo, magari buttatevi su una cosa concreta. Poi in America c'è l'ascensore sociale ancora, nel senso c'è la possibilità di fare l'idraulico 5 anni, poi hai un'idea, magari ti inventi qualcos'altro, no? È quello che sto dicendo, quando dico che si può permettere Bloomberg In America puoi fare 10 cose diverse nella vita. Esatto, io ho uno zio in America che ha fatto prima l'assistenza sociale e poi il gelataio. Fantastico. E sta meglio prima? Sta meglio prima? Ma sta meglio prima. Un uomo felice, devo dire. Sì. Ecco i gelati, però adesso è bella questa cosa. Vabbè, vi voglio fare sentire questo. Allora, ieri avete visto le Iene per caso? Io no, perché stavo vedendo Rigorissimo su Balotelli e su. Allora, ieri Filippo Roma ogni volta ne fa una buona. Ha intervistato la voce un po' distorta, un assistente parlamentare, un senatore, il quale dice, lo capirete anche se la voce è un po' distorta dall'intervista, che ci sono delle lobby, soprattutto ne conosce due, di multinazionali del tabacco e del gioco, delle slot machine, che hanno a libro paga dei senatori, li pagano così per far votare poi degli emendamenti, una cosa ovviamente illegale, cioè soldi, come dire, ecco, sentite. Tu chi sei? L'assistente di un senatore. Cosa ci vuoi segnalare? I traffici illeciti che esistono nei palazzi del potere, nella fattispecie in Senato, dove ci dovrebbe essere il massimo della trasparenza, della correttezza e della regolarità. Traffici illeciti di che tipo? Vi sono alcuni senatori e alcuni onorevoli che sono a libro paga di alcune multinazionali, le cosiddette lobby. In che senso le lobby hanno a libro paga onorevoli senatori? Ci sono le multinazionali che ogni mese, per mezzo di un loro rappresentante, fanno il giro dei palazzi, sia al Senato che Camera, incontrano noi assistenti e ci consegnano dei soldi da dare ai rispettivi senatori onorevoli. A che titolo? Hai capito, Giglioli? Poi racconto, ovviamente, perché per far sì che passino delle leggi a favore di. Oh, ma questa è una cosa. Ma io adesso, Grasso, il presidente del Senato, ha detto chissà, vada subito in procura e denunci questa cosa. È un'accusa forte. È una cosa è piuttosto noto, ahimè, a chi frequenta i palazzi della politica spesso, nel senso che è noto, è un rumore, è un bla bla, non è che sia noto il singolo. Spesso a queste mazzette, a quanto ne so io, avvengono per via trasversale, cioè non per via diretta, nel senso che, non so, ci sono dei convegni che questa multinazionale fa, e poi questi convegni emerge qualche invito, ricerca. Parli, ma anche l'assistente magari poi gli chiede all'assistente parlamentare di fare un falso contributo a un giornaletto di una lobby, insomma. Qui sta dicendo, c'è proprio, c'è uno che fa il giro del palazzo, cioè, sono accuse comunque pesantissime. Questa è la prova ennesima in me che tutto questo bla bla che dicono tutti a partire dal PD, secondo il quale l'abolizione del finanziamento pubblico sarebbe una follia perché poi vincerebbe solo il finanziamento privato illecito o lecito, è una strozzata, perché il finanziamento privato lecito o illecito arriva comunque, e non è, come ahimè ha dimostrato la storia, non è riempiendo i partiti di soldi pubblici che si combatte. No, questo sì, però certo, questa è un'accusa molto grave. Io qui adesso mi devo fermare, non so se avrà spero un seguito, sia come Iene, sia come Grasso ha già detto chissà parli e vada in procura. Spero ci sia qualcuno che faccia questa denuncia, anche questo assistente parlamentare. L'accusa certo è gravissima. Vi devo salutare, vi ringrazio, Bimbo Alieno, per essere stato con noi. Alessandro Giglioli, seguiteli così, Bimbo Alieno su Twitter, piovono rane invece è Alessandro Giglioli dell'Espresso. Alla prossima! Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, cari ascoltatori, alle 7:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Siamo pronti allora a leggere i giornali. Oggi gli ospiti avremo alle 8:15 Alessandro Cattaneo, che è il sindaco di Pavia e anche il reggente in questo momento dell'ANCI, dei comuni. E poi alle 8:30 sarà con noi il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, è il ritorno in radio, è da mesi che non parla in radio, lo fa oggi per la prima volta qui a Radio 24, a 24 Mattino, presenterà anche il suo libro uscito da ieri, Oltre la rottamazione. Questi gli ospiti, parleremo dunque di attualità politica e andiamo subito a sfogliare con voi i quotidiani. È lunedì 20 maggio, i titoli intanto, il Sole 24 Ore si concentra sull'IMU nell'edizione del lunedì, rata IMU per 30 milioni di immobili, quelli che pagano, perché è vero molti esentati, ma ci sono quelli che invece a giugno pagheranno. Il lavoro e i giovani invece, l'apertura per il Corriere della Sera, un decreto per giovani e lavoro, questo è il titolo di prima pagina, contratti a termine più facili, part time prima della pensione. Repubblica, un piano per i giovani disoccupati, il ministro del lavoro prepara così l'incontro con le parti sociali. Per la Stampa, Epifani, attacco sulla giustizia, Berlusconi smetta di minare ogni giorno il governo. Il Secolo XIX invece torna sull'IVA, allarme IVA, 135 euro di tasse in più. Il Giornale riprende il servizio mandato in onda ieri dalle Iene, il titolo di prima pagina è Deputati e senatori pagati dalle lobby. Per l'Unità invece no alla sinistra che scappa, c'è un'intervista al segretario del PD Epifani. Il Messaggero, aumento IVA, non si cambia, questo è il titolo di prima pagina del Messaggero, mentre segnalo il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, che in genere è anche un approfondimento su un tema monografico, questa settimana è cambio sesso, prigionieri di un corpo, le persone che cambiano sesso per l'appunto. Allora, come detto, addirittura il Giornale l'ha messo in prima pagina, l'abbiamo sentito anche, l'abbiamo proposto anche noi alle 6:30, uno stralcio del servizio che ha mandato in onda ieri le Iene, nel quale servizio Filippo Roma intervista un assistente parlamentare che sotto forma anonima racconta di parlamentari a libro paga delle lobby, cioè di parlamentari che prenderebbero soldi in nero, in maniera illegale, da multinazionali, soprattutto del tabacco e del gioco d'azzardo legalizzato, che pagherebbero dei parlamentari per l'appunto in nero. È un'accusa molto forte. Il Giornale, come detto, lo mette in prima pagina e poi a pagina 9 fa un'intera pagina per l'appunto. Parlamentare a libro paga delle lobby, Pier Francesco Borgia racconta proprio come uno stipendio con regolarità mensilmente ad alcuni senatori e deputati arriverebbero ogni mese finanziamenti da parte di alcune multinazionali che farebbero attività di lobby, sfruttando soprattutto l'ingordigia dei nostri rappresentanti politici. Questa è l'accusa mandata in onda ieri nel servizio delle Iene. Nel servizio si vede un assistente parlamentare ripreso di spalle che con voce alterata racconta il sistema utilizzato da alcune multinazionali per far passare emendamenti favorevoli. Un sistema semplice, un emissario della società, racconta questo assistente, viene da noi a Palazzo Madama, ci consegna i soldi per i parlamentari per cui lavoriamo. Ovviamente subito sono partite le repliche. Il presidente del Senato Piero Grasso, da tra l'altro ex magistrato di lungo corso, dice: ho sempre combattuto la corruzione, ora chissà, parli, vada in procura. È chiaro che racconta anche l'Unità a pagina 5 sotto il titolo Le Iene, lobby in Parlamento. Grasso replica: dalla forma anonima della denuncia è difficile risalire a qualcosa di concreto e dunque chissà, denunci subito. Per la verità fa sapere anche il Messaggero, che mette questa notizia a pagina 5, detto che quindi insomma questa notizia sta facendo molto molto rumore anche sulla stampa. Parenti, vale a dire il Davide Parenti, il papà delle Iene, il capo autore delle Iene, interpellato all'ANSA, dice: noi abbiamo fatto il nostro mestiere, siamo riusciti a trovare qualcuno che parla, ma la questione sollevata dal nostro programma non può essere certo un fatto di cui nessuno è a conoscenza, ovvero come ci siamo arrivati noi, immagino saranno stati informati da tempo anche quelli che lavorano nel palazzo, e dunque mi risulta difficile immaginare che lì nessuno sapesse, cioè insomma un modo, come dire, non spetta a noi denunciare più di quanto non abbiamo già fatto con questo servizio. Anche sul Secolo, a pagina 3, questa notizia trova spazio: onorevole a libro paga di lobby e multinazionali. Vedremo dunque se ci saranno sviluppi. Gli sviluppi potrebbero essere davvero con una denuncia facendo nomi e cognomi, anche mettendoci la faccia, non con un'intervista solo con la voce coperta. Vabbè, già questa notizia vi ha fatto tenere strette le mani sul volante perché vi ha fatto arrabbiare. Peter Biscabè dice: sì, si annuisce con la testa. Allora sentite questa, voglio saltare in prima di Corriere Economia, cioè l'inserto di economia del Corriere della Sera, e sentite cosa racconta Sergio Rizzo. Non è la prima volta che torna sulla storia della Sogin. La Sogin è la società che da 25 anni prova a smantellare le centrali italiane. Finora ci è costata l'1% del PIL e ha più dipendenti nel 2011. E si dice: ma come, il nucleare in Italia non c'è, per referendum è stato cancellato. Ho capito, ma ci sono le vecchie centrali che vanno appunto messe in sicurezza e smantellate. E allora Sergio Rizzo racconta: quando decisero di spegnere le centrali nucleari in Italia correva l'anno 1987, D'Alema era appena entrato in Parlamento, Fini veniva eletto segretario del Movimento Sociale, il Napoli di Maradona vinceva accoppiata scudetto Coppa Italia. Da 25 anni lo smantellamento di quegli impianti è un cruccio o un affare, secondo i punti di vista, che va avanti senza sosta. Se ne sta occupando una società pubblica, la Sogin, attualmente presieduta dall'ex ambasciatore a Mosca e Londra Giancarlo Aragona. Nata da una costola dell'Enel, ora di proprietà del Tesoro, negli anni passati si è trovata anche al centro di polemiche decisamente singolari. Memorabile per esempio l'apertura di una lussuosa sede a Mosca negli anni più intensi del feeling Berlusconi-Putin. E ancora altrettanto memorabile alcune iniziative d'immagine, tra cui la partecipazione alla fiera del libro usato, cara all'ex senatore dell'Utri, per la modica cifra, per la verità, di 1.257.000 euro. 1.257.000 euro, cioè un milione più IVA. Per non parlare di alcune assunzioni di parenti e amici, ma è tutta acqua passata. Apprendiamo ora dall'ultima relazione della Corte dei Conti che a circa un quarto di secolo dal referendum in seguito al quale i politici decisero di spegnere le quattro centrali nucleari attive in Italia, finalmente la Sogin ha intensificato l'attività di smantellamento, per la prima volta aggredendo il core delle centrali. Il tutto ovviamente avviene avvalendosi di ditte specialistiche. Naturalmente chi paga, ci sono i conti, Naturalmente gli utenti, perché tutto questo, lo smantellamento delle centrali atomiche, grava sulle tariffe elettriche in base a un provvedimento del 2001 che stabilì che per completare l'operazione di finanziamento a favore della Sogin c'era il prelievo sulle bollette pari a 6.500 miliardi di lire, cioè 4 miliardi 236 milioni di euro attuali, 4 miliardi e 236 milioni, la ripeto per la terza volta, 4 miliardi 236 milioni da spalmare su un periodo di 20 anni, sempre che non ci fossero le solite difficoltà sorte, che poi puntualmente in Italia si verificano sempre. Vabbè, leggete questo articolo di prima pagina di Corriere Economia, la Sogin, sulla Sogin, e noi ci fermiamo per la pubblicità, ripartiamo dalla politica, ma anche l'IMU e l'IVA. Avete voluto indietro l'IMU? E mo' beccatevi l'aumento IVA. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui, sono le 7:38 minuti, siamo pronti a continuare la lettura dei giornali partendo dall'IVA. Tutta l'attenzione adesso dei giornali, dopo le discussioni sull'IMU, è sull'IVA. Sapete che a inizio luglio è previsto uno scatto dell'IVA dal 21 al 22% come aliquota ed ecco che chiaramente tutti guardano a questo prossimo appuntamento poco simpatico che coinvolgerebbe, come racconta il Corriere della Sera, il carrello della spesa con bevande, tabacchi, elettrodomestici, trasporti, elettronica, arredamento, abbigliamento, servizi, tutto dal 21 al 22%. L'aumento IVA più vicino, il governo cerca 2 miliardi, racconta pagina 3 il Corriere della Sera con Monica Guerzoni. Il governo non sa dove scovare i 2 miliardi che servono per scongiurare la stangata dell'IVA e così il sospirato decreto per bloccare lo scatto dell'imposta sui consumi il 1 luglio è destinato a rimanere nel freezer di Palazzo Chigi in attesa di un miracolo che però il governo non è in grado di compiere. L'aumento c'è, conferma il Premier. Avete visto? 2 miliardi di euro servono questi e non si trovano da qui a luglio. Allarme IVA a fine anno, 26.000 imprese in meno. Questo è l'allarme di Confcommercio a pagina 8 della Stampa. Con l'aumento al 22% è una stangata che viene quantificata in 135 euro a famiglia italiana annuale e dice Confcommercio appunto rischiano 26.000 imprese di essere cancellate. Anche per il Fatto Quotidiano, nell'edizione del lunedì, c'è comunque appunto questo articolo di Stefano Feltri che segue la parte economica. L'IVA aumenta a luglio, è Letta che è dato per rassegnato. L'unica ipotesi di lavoro è congelarla fino a dicembre. In realtà una proposta la fa Stefano Fassina, vice ministro dell'economia, intervistato dal Corriere della Sera. Più che un'intervista sono alcune considerazioni. Intervistato da Stefania Tamburello, dice l'IVA si può evitare. Come? Eccola qui. Tassando le prime case di pregio, sempre con una, cioè si scongiura l'IVA ma sempre con una tassa. Questa è la soluzione di Fassina. Purtroppo non c'è un momento in cui si apre il forziere e si trovano i soldi necessari per affrontare tutte le emergenze, ma bisogna costruire giorno per giorno le condizioni per intervenire. Ed ecco allora la proposta di Fassina, il congelamento dell'IVA. Costa per il 2013 2,2 miliardi di euro, è esattamente l'ammontare del gettito IMU proveniente dal 15% di proprietari di prime abitazioni di maggior valore per i quali è scattata la sospensione del pagamento. Dunque, dice Fassina, propone, e qui me lo vedo bene il governo delle larghe intese, far pagare il 15% dei proprietari delle case che sono state esentate a giugno, quelli di maggior valore di case di pregio, farle pagare e qui si troverebbero i 2,2 miliardi necessari a scongiurare l'aumento dell'IVA. Vabbè, questo è il tema che segnerà il dibattito economico e finanziario dei prossimi giorni. Per la verità di economico c'è soprattutto il tema, e questa è la settimana importante. A proposito, l'ho messo su Twitter ovviamente e lo comunico, è ufficialmente iniziata la terza settimana decisiva per la riforma elettorale. E sul mio profilo Alino Milan, se volete seguirmi. Così come è iniziata oggi la terza settimana decisiva per l'abolizione delle province. Terremo ovviamente il conto come nella scorsa legislatura. Dicevamo invece questa è una settimana importante per quel che riguarda il fronte occupazione giovanile. Sia su Repubblica sia sul Corriere, questo è un po' il tema centrale a pagina 2 per esempio. della verità. Prosegue da pagina 1 Roberto Mania su Repubblica. Da qui fino a giugno ci concentreremo sul piano giovani. Questo è il ministro del lavoro Enrico Giovannini che ribadisce la priorità del governo Letta. Con che cosa? Staffetta, contratti, pensioni flessibili, un programma da 12 miliardi del governo. L'ambizione è molto ampia, è quella di tagliare dell'8% la disoccupazione giovanile. Con un obiettivo ambizioso, racconta Mania, appunto, ridurre la disoccupazione giovanile di 8 punti, portandola al 30% dai livelli record attuali. Non poco, non a portata di mano, ma possibile, perché l'Europa, che di fronte al rischio di trovarsi un'intera generazione senza lavoro, dovrà mettere in campo politiche coordinate, idee e anche risorse. E qui insomma c'è tutta un po' una roadmap, c'è anche un'intervista a pagina 3 di Susanna Camusso, siamo sempre su Repubblica, intervistata sempre da Roberto Mania, racconta la leader della CGIL: per ora siamo di fronte a indicazioni, vedremo nel merito. Certo, c'è la Youth Guarantee europea, è forse l'unico atto sociale della Commissione di Bruxelles in questa stagione, non è una rivoluzione, sia chiaro, né sono clamorose le risorse, ma è importante che ci sia, soprattutto per un paese come il nostro. Quello che propone invece Susanna Camusso dice: va chiusa la stagione in cui si riteneva che i giovani potessero lavorare gratis, questa può essere l'occasione per far diventare gli stage o i tirocini dei veri rapporti di lavoro formativi, e può essere l'occasione anche per ritornare a parlare di politiche attive per il lavoro dopo che è scaduta la delega al governo per il riordino delle agenzie per il lavoro. Insomma, Susanna Camusso che lancia su questo. Tra l'altro, a proposito di IMU, se volete, sul Sole 24 Ore a pagina 2-3 c'è l'elenco di tutti quelli che pagano. Invece sono 30 milioni gli immobili che non vengono esentati, perché dovranno pagare intanto le seconde case, devono pagare per la verità anche le 73.000 abitazioni principali, cioè ville, castelli, palazzi o case signorili classificati come immobili di pregio, ma insomma tutto l'elenco di quelli che devono pagare. Non devono pagare invece, c'è anche un focus a pagina 5 non devono pagare invece i proprietari di tutto il settore agricolo e dunque i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Anche per loro è scattato appunto la sospensione del pagamento della rata di giugno, e tutti i dettagli li trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore. Insomma, come vedete, molta economia e molta finanza in questo lunedì. La politica invece che cos'è? Beh, la politica è un po' litigi, il PD che litiga con SEL dopo la manifestazione della Fiomma, nella quale Vendola dice: non ho visto nessuno del PD. Epifani sbotta: Vendola è la sinistra che scappa, neanche per Berlusconi, smetta di piazzare mine soprattutto sul tema giustizia. Insomma, Epifani viene anche intervistato a pagina 3, tra l'altro l'avete visto che capitombo l'ha fatto, mannaggia, salendo sul palcoscenico, sul palco ad Avellino, si è fatto anche male a un polso. Mentre il sindaco Alemanno a Roma ha spostato una fioriera e si è spaccato un dito mignolo nel piede. Vabbè, insomma, la politica va a pezzi in ogni caso. Insomma, Epifani fa un'intervista all'Unità, intervistato da Andrea Carugati a pagina 3: giuste le domande della piazza Fiom, ma il PD si gioca tutto al governo, dunque rivendica l'idea non ci fossero alcuni del PD alla manifestazione. Gli risponde Vendola con Giovanna Casadio che lo intervista su Repubblica: i democratici ormai sono neocentristi, stanno divorziando dal loro popolo, ma insomma c'è tutta una serie di liti. L'ultima è anche tra Renzi e Grillo, nel senso che Grillo ha detto invito a tutti quelli del PD a stracciare la tessera, e Renzi dice il Movimento 5 Stelle sta scomparendo e si finiranno per dividersi. E allora la politica è anche questa, ritorna al discorso sulla presunta ineleggibilità di Silvio Berlusconi, perché il Movimento 5 Stelle, fa sapere Repubblica, già da domani, con Annalisa Cuzzocrea, lo trovate a pagina 10, non farà passi indietro, e domani la giunta per l'elezione e le immunità parlamentari si riunirà per la prima volta, e dice Vito Crimi, cioè il portavoce, il capogruppo dei senatori del Movimento 5 Stelle: alla prima seduta utile noi solleveremo la questione, e secondo me stavolta passerà la giusta interpretazione della legge, quella per cui il Cavaliere non avrebbe mai dovuto sedere in Parlamento, perché appunto secondo questa legge del 1956 7, è ineleggibile chi possiede o dirige aziende concessionarie dello Stato. In passato questa legge è stata interpretata con garantendo l'eleggibilità di Silvio Berlusconi. Questa volta il Movimento 5 Stelle vuole rilanciare e tra l'altro racconta in un retroscena politico Amedeo La Mattina sulla Stampa, pagina 3, ora il PDL teme proprio questo, una sorta di asse tra Grillo e parte del PD, perché il PD è già spaccato su questo tema, sulla ineleggibilità. Il centrodestra è preoccupato che alcuni senatori decidano di votare con i 5 Stelle su questo tema dell'ineleggibilità. Vabbè, la cronaca, vi segnalo un'intervista perché è abbastanza rara e quando lo fa è interessante. Il presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, intervistata dalla Stampa, pagina 11, un'intera pagina, Luigi La Spina racconta: lei tutto mi sarei immaginato nella vita tranne di ricevere quella telefonata che mi fece Monti. E io risposi alla domanda, va a fare il presidente della RAI, ma io non c'entro nulla con la RAI. E lui replicò: proprio per questo l'ho scelta. Lei deve portare competenze di gestione e garanzia di indipendenza. Insomma, dopo 42 anni alla Banca d'Italia non sono affatto pentita, perché non è nel mio carattere, dice Anna Maria Tarantola, ma ho intrapreso questa avventura. Dice della RAI che vorrebbe qualità, informazione, fiction, intrattenimento, vuol dire equilibrio, correttezza, no al sensazionalismo, no alla TV del dolore. Dobbiamo raccontare anche le cose negative, certo, perché se non le si conosce non le si può combattere, ma dopo il racconto bisogna offrire un messaggio di proposta per affrontare il problema. Al che arriva la domanda, scusi, qualità, c'è stato il matrimonio di Valeria Marini trasmesso. Sentite come lo... come risponde Anna Maria Tarantola: sono incidenti che possono sempre succedere, spero che ne succedano sempre di meno, ma vorremmo che la donna sia rappresentata in TV in modo diverso, che la fiction sia più contemporanea, racconti storie più realistiche. A questo proposito, nella mia RAI mai più Miss, mai più Isole dei Famosi. Questo il titolo dell'intervista. Riguardo al canone, aumentarlo non è possibile politicamente, il problema italiano è l'evasione del canone che vale 500 milioni di euro. Comunque, insomma, questo lo trovate tutta l'intervista di Anna Maria Tarantola, presidente della RAI, intervistata dalla Stampa, pagina 11. Di cronaca a me è colpito tantissimo questa storia che trovate sul Corriere, Fulvio Buffi, a pagina 17, mi ha molto colpito, perché tutte le donne che subiscono violenze da parte dei loro uomini sanno bene che una delle regole che viene detto loro è, anche se non è facile, è non perdonare, bisogna denunciare, soprattutto adesso che c'è una legge sullo stalking un po' più dura di prima. Non è una legge che risolve tutte, non diciamo cavolate, chi ha esperienza pratica sa che non è assolutamente facile, però è una legge che tutela di più rispetto al passato le donne. Allora mi ha molto molto colpito negativamente il racconto che trovate di Rosaria Aprea. Vi ricordate? Qualche giorno fa è stata picchiata, è andata in ospedale, è conosciuta anche perché ha partecipato in passato come reginetta Miss Italia. Ebbene, sentite cosa dice: lo perdono e torno da lui. La Miss picchiata dal compagno, Rosaria Aprea in ospedale, ritiro la denuncia. La ventenne di Macerata Campagna, ricoverata da una settimana, le hanno asportato la milza in seguito ai colpi ricevuti dal suo compagno. In un'intervista ieri al Corriere del Mezzogiorno dice: io amo quel ragazzo e voglio tornare da lui. Si è lasciata anche fotografare per dimostrare che non è vero che ho subito percosse, tesi a suo parere dimostrata dall'assenza di lividi e medicazioni sul volto, braccia e testa. All'addome però l'hanno dovuto operare due volte in poche ore, prima per asportarle la milza, poi per fermare un'emorragia interna. Rosaria questo lo sa, ma resta convinta che Antonio Caliendo, imprenditore 27enne di Casal di Principe, con il quale un anno fa ha avuto anche un bambino, non voleva sicuramente farmi male, perché ci amiamo e non vedevamo l'ora di andare a vivere insieme con nostro figlio. Eccolo qui, torno da lui, l'ho perdonato. Non ci sono commenti, ovviamente ognuno faccia quelli che vuole. Chiudo con il calcio. Io non so come fare ad affrontare Matteo Renzi alle 8:30 dopo quello che è successo ieri. Milan, urlo Champions! E è andata così, insomma. C'è stato un rigore, un rigorissimo, e poi un gol. e in Champions League il Milan e la Fiorentina, non so, quest'altro anno. È andata così, Milan urlo Champions. Sai che non parleremo di calcio con Matteo Renzi alle 8.30. 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo parlare di attualità politica, lo faremo alle 8.30, sarà con noi Matteo Renzi, sindaco di Firenze, che torna dopo vari mesi a parlare in radio. Con noi prima c'è invece un altro sindaco, anzi è il presidente dell'ANCI in questo momento, dunque di tutti i sindaci italiani, Alessandro Cattaneo, è il sindaco di Pavia. Buongiorno e benvenuto Cattaneo. Buongiorno, buongiorno a voi. Del Popolo della Libertà. Allora, io le faccio questa domanda. Intanto, lei da sindaco è contento non dovrebbe essere molto contento per la sospensione dell'IMU? Sono soldi in cassa in meno che vengono ai comuni, anche se è vero che non è l'ICI di una volta. Oppure, da esponente del Popolo della Libertà, è contento di più perché avete mantenuto questa promessa elettorale? Ma noi sindaci facciamo tutti un discorso analogo, che vuole guardare insomma alla concretezza dell'amministrare quotidiano. Diciamo che noi non vogliamo passare per i difensori di una tassa, perché l'IMU per primi l'abbiamo un po' contestata, perché il fatto di utilizzare la nostra faccia per prelevarla, poi oltre metà del gettito va allo Stato centrale, non ci ha mai visto particolarmente entusiasti. Abbiamo per primi chiesto un riordino, si chiama imposta municipale unica, poi non è né municipale né unica, e quindi da tempo chiedevamo un riordino. Sulla prima casa, se si vuole fare appunto un discorso complessivo di sistemare questa tassa, noi ci siamo con responsabilità, però ovviamente diciamo da subito che non deve diventare un'ennesima manovra sugli enti locali, i comuni hanno già sopportato dei tagli enormi. Ma quanto lei ad esempio per il suo comune ha quantificato quanto perde di mancato gettito in questa tassa di giugno? Intanto da subito non perdiamo nulla, perché il governo ha provveduto a diciamo garantire l'anticipo di cassa dallo Stato centrale, provvedendo peraltro anche al pagamento degli interessi su questo anticipo. È una partita significativa a livello nazionale, posso dare i numeri, vale 4 miliardi di euro l'IMU sulla prima casa, sì. L'IMU in totale ne vale 24, e poi un altro dato può essere interessante per radioascoltatori: il bilancio dello Stato ne vale 800 di miliardi. Secondo me questi numeri danno senso che se l'IMU viene guardato semplicemente, puntualmente, solo nel suo valore, e si fa un discorso molto circoscritto, il rischio è di ritrovarsi da un trasferimento da una tassa a un'altra tassa. Se invece si allarga un po' lo sguardo, si cerca di fare un discorso più ampio, i denari si possono trovare. L'importante è cercare di colpire una volta per tutte la spesa inefficiente del paese. Sì. Senta, un altro problema riguardante sempre le tasse è la riscossione dei tributi, no? Ma com'è possibile che un paese si sia trovato in una situazione in cui Equitalia ora aveva in mano fino alla riscossione dei tributi, ora ci vuole una nuova organizzazione con rischio anche di da parte delle amministrazioni che non si sono messe in regola? Cioè cosa è successo? Cosa diamine è successo? Do un altro numero allora, oggi a stamattina do i numeri. 11 miliardi di euro, 11 miliardi di euro valgono diciamo la partita che sta gestendo Equitalia. In sostanza vuol dire riscuotere dalle multe. Cioè che sono a rischio? Questi 11 miliardi di euro sono a rischio, non si sa più chi li riscuote. Se da un giorno all'altro Equitalia lasciasse in mezzo alla strada, viene da dire, tanti comuni, sarebbe un problema, perché i residui attivi dei bilanci in sostanza non avrebbero più la certezza di essere riscossi. Noi non diciamo che, come dire, non è che prima eravamo contro Equitalia, adesso siamo entusiasti di Equitalia. Cioè vi dovete tenere Equitalia adesso, ve la dovete tenere, perché se vi abbandona rischiate di non sapere come tirar su 11 miliardi. C'è un periodo di transizione, innanzitutto la riscossione coatta è il vero problema, e non è che ci siano in giro molte società che fanno questo mestiere o che sia un mestiere particolarmente gratificante, ed è anche vero che i comuni devono un po' attrezzarsi, perché lei immagini anche i piccolissimi comuni su 8.000, quelli sotto i 5.000 abitanti sono tantissimi, non hanno nemmeno una massa critica appetibile per fare un bando di gara da cui avere successo. Bisogna organizzarsi, noi sempre diciamo che l'autonomia dei territori è in qualche modo il faro, quindi bisogna che siano liberi i comuni di organizzarsi, però ci sono degli oggettivi problemi nel fare i bandi, nel far sì che questi quindi bandi cosa chiedete? Una sorta di sei mesi di transizione, di accompagnare la transizione, è solo questo, di accompagnare la transizione, e molti stanno anche collaborando con le regioni, la regione Emilia Romagna ha fatto già delle cose, la regione Lombardia ha dichiarato di voler fare la stazione appaltante da cui poi i comuni possono attingere, noi stessi come ANCI abbiamo fatto un bando di riferimento quadro nazionale, insomma semplicemente accompagnare una fase di transizione che è però una partita particolarmente grossa. No, ma staremo a vedere. Sindaco, per concludere, noi tra poco appunto abbiamo Matteo Renzi che ha scritto un libro Oltre la rottamazione, non è che si sia pentito, però dice forse l'usare la rottamazione è stato un po' un messaggio anche negativo. Lei che è il rottamatore invece del Popolo della Libertà, è un qualcosa sulla quale, una strada sulla quale proseguire, cioè lei insiste sull'idea ci vuole una nuova generazione? Noi siamo i formattatori, avevamo già capito che il termine era un po' troppo, poi era già utilizzato e poi negativo. No, vabbè, scherzi a parte, intanto devo dire che questa ondata di spinta di esigenza di rinnovamento qualche risultato, insomma, mi sento di dire che l'abbia dato, perché comunque abbiamo il Parlamento che è il Parlamento con anagraficamente tra i più giovani, con la maggior presenza di donne, il governo poi tra mille vicissitudini che è nato è un governo anche questo che ha elementi di novità, a volte la politica riesce a fare qualche passo in avanti più velocemente di tanti altri settori del paese, sì. Detto questo assolutamente bisogna proseguire su questa strada, forse senza dare la percezione come è stato prima di una contrapposizione netta, ma come di un'esigenza però reale che non deve essere più rimandabile. Sì, un cambiamento morbido, diciamo così. Morbido non morbido, quello che importa è la sostanza delle cose. Insomma, qualche risultato lo rivendichiamo, altri devono ancora arrivare, ma ci si sta lavorando e per esempio noi, parlo come PDL, c'è un grande patrimonio che è proprio negli enti locali, che deve essere valorizzato, che deve essere fatto emergere, e lì stiamo lavorando con coerenza per dare poi alla fine nelle decisioni che ciascuno di noi prende facendo il sindaco, il consigliere, l'assessore ogni giorno con la sua comunità, con i suoi cittadini. Allora, intanto staremo a vedere, per il momento la ringrazio, Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia e presidente in questo momento dell'ANCI, quindi dei comuni italiani, grazie per essere stato con noi del Popolo della Libertà. Noi ci fermiamo con la pubblicità, tra 5 minuti sarà con noi il sindaco di Firenze Matteo Renzi, la prima volta che torna in radio dopo tanti mesi, lo fa qui a Radio 24 e parleremo anche del suo libro Oltre la rottamazione, che è uscito ieri, è stato presentato al Salone del Libro di Torino. 24 mattino. Eccoci, allora sono le 8:32 minuti in punto e con noi fino alle 8:55 alla chiusura del programma c'è il sindaco di Firenze Matteo Renzi, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei. Grazie, torna dopo vari mesi in radio, eccolo qua, e tra l'altro da ieri con un libro che trovate in libreria, il titolo è Oltre la rottamazione, edito da Mondadori. Vogliamo subito toglierci questa polemica sulla questione del perché editare da Mondadori, da Berlusconi, Renzi? No, questa volta non l'avevo visto, c'è polemica anche a questo giro, non no, per, per il momento no, ma è uscito da un giorno. Ha fatto un libro, loro ci hanno fatto il governo con Berlusconi, non so chi ha messo meglio, mettiamola così, dai. Ecco, quindi ne sono imbarazzo comunque. No, fatto. Ma la Mondadori, al di là delle battute, è una grandissima casa editrice, una delle principali di questo paese, pubblica per autori di tutti i generi, di tutti i tipi, che non credo che sia riconducibile tutte le volte alla polemicuccia politica, per cui allora Dan Brown che fa? Non deve pubblicare, piuttosto che lo scrittore emergente, non facciamo polemiche su questo. Se vogliamo parlare del governo di larghe intese, beh, mi faccia dire che quando io venivo da lei a dire che dovevamo prendere il voto dei delusi del centrodestra, forse, e sono stato, come lei ricorderà, non dico insultato, ma profondamente criticato, ah tu sei questa intelligenza con il nemico. Bene, oggi abbiamo visto che se non si prendono il voto dei delusi del centrodestra, alla fine si prendono i ministri del centrodestra e talvolta anche le idee del centrodestra. Prossima volta forse se fanno una polemica in meno è meglio. A proposito di questo, non è che adesso vuole prendere i voti del Movimento 5 Stelle, perché c'è stata questi due giorni di schermaglia. Grillo dice a quelli del PD stracciate la tessera e venite con noi. E lei dice siete ridicoli, parlate solo di diarie. Punta a loro? No, io non faccio, guardi, in questo momento non siamo in campagna elettorale, per cui credo che sia inutile stare a cercare la bagarre quotidiana. Beppe Grillo ha bisogno della bagarre quotidiana per poter avere una sua visibilità. Io dal mio punto di vista faccio il sindaco e quindi le cose concrete che faccio, che siano positive o meno, sono sotto gli occhi di tutti. Quello che mi sembra strano è che il Movimento 5 Stelle, dopo l'ubriacatura dei primi giorni, per cui come dire, uno sbadiglio di crimini o una dichiarazione della Lombardi sembravano quasi eccitare la stragrande maggioranza degli operatori della comunicazione e della politica, beh, dopo l'ubriacatura iniziale, vogliamo dirlo o no che questi del 5 Stelle avevano una possibilità di dare un bel segnale contro la casta, contro la vecchia politica, e sono lì da 3 mesi, l'unica roba che sono riusciti a fare di significativo è litigare sugli scontrini e sull'indennità e sulla diaria. Cioè Grillo dice a noi di stracciare la tessera, ma i suoi di conservare gli scontrini, e tutta la polemica è su quanto guadagnano. Allora, il problema non è quanto guadagnano, il problema è se fanno le cose. Noi abbiamo presentato una proposta di legge per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, l'hanno fatta alcuni parlamentari del PD, primo firmatario Nardella. 5 Stelle votano o non votano? Quando si parla Lo dicono da sempre che vogliono abolirlo, no, proprio il finanziamento. Guardi, mettiamola in questo modo, qui non stiamo più parlando di chi lo dice. Se vogliamo andare a scoprire chi l'ha detto prima, rivendico il copyright, ma comunque insomma va bene anche che sia una roba wiki questa, che tutti possano dare il proprio contributo. Il punto è che loro sono in Parlamento, sono più di 100 in Parlamento ormai. Le cose o le fanno oppure perdono la fiducia di quelli che l'hanno votato. Ecco, non può più andare a forza di barzellette, lo dico perché ci sono le elezioni amministrative, io un po' girato in questo periodo, e tanta gente inizia a essere sfiduciata, magari avevano votato Grillo. A me piacerebbe che anche alle persone che hanno votato Grillo noi dessimo una risposta. Chi ha votato Grillo non è che magari si è letto tutto il programma di Casaleggio, io ne riprovo a dirlo. Chi ha votato Grillo ha dato un segnale di stanchezza verso la vecchia classe. Ma è quello che dico, cioè di fronte a questi elettori sfiduciati, secondo lei il PD deve comunque guardare. Poi PD, faccio un esempio concreto per vedere se riesco a parlare, a non iniziare a parlare politichese anch'io. Se il ministro delle regioni e degli affari territoriali, lo dico perché lo conosco bene, che è Graziano Del Rio, riesce finalmente a abolire le province intese come superamento dei politici nel territorio, diciamo nella istituzione provincia, perché poi se lei è nato in provincia di Como o di Valencia magari è affezionato, non è questo il punto è l'istituzione politica e quindi il presidente della provincia, l'assessore provinciale, lo staff, il consigliere eccetera. Se come io credo nei prossimi 6-9 mesi il ministro Del Rio abolisce le province, questo è un segnale che un elettorato come quello di Grillo apprezza. Eh beh, questo certamente. Tutti gli italiani credo apprezzerebbero. Le faccio un altro esempio stupido se vuole, anche in questo caso se ne parla nel testo, ma se noi continuiamo a dire, io stesso durante le primarie ne parlavo, dimezzare il numero dei parlamentari, bene, oggi c'è una possibilità che non arriva proprio a dimezzare, ma che è molto intelligente secondo me, che è quella di superare il Senato come lo conosciamo oggi, che quindi fa le stesse cose che fa la Camera, in un soporifero ping pong istituzionale. Bene, quel tipo di superamento lì non soltanto provoca una semplificazione della procedura, ma oh ragazzi, manda a casa un terzo dei parlamentari, perché a quel punto i senatori non si eleggono più. Quindi dice facciamo queste cose concrete. Però sindaco, io vorrei partire da quello che lei ha detto all'inizio, cioè se non prendiamo i voti del centrodestra ci tocca prendere i loro ministri. Eppure lei nel libro dice che la soluzione in questo momento migliore, quella che dovevamo ottenere, è questa delle larghe intese, cioè bisogna stare con chi sta con l'Italia, sta con Enrico Letta e questo governo. Perché? Andiamo con ordine. Quando il giorno dopo le elezioni c'erano solo 3 strade, ok? Una strada era l'accordo tra il PD e 5 Stelle e abbiamo visto che Grillo l'ha subito smontata. Bastava vedere i dati e quindi questa fuori. Ne rimanevano 2. O si andava subito alle elezioni, lei ricorderà che io ero a favore di questa possibilità, oppure si faceva il governo con il centro-sinistra e il centro-destra, per un motivo molto semplice, di numeri. Essendoci 3 minoranze, e la matematica non è un'opinione. In questa logica Nel momento in cui il Presidente della Repubblica e le forze parlamentari hanno scelto di appoggiare, anzi di incaricare Enrico Letta di formare un governo, è evidente che chi vuol bene all'Italia fa il tifo per Letta. Perché io non sopporto quelli che vengono a dire ma tu devi sperare che Letta fallisca, almeno poi vai tu. Questo atteggiamento è un atteggiamento veramente assurdo, stupido e masochista, che non fa i conti con la realtà delle aziende, delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori. Sì, però anche lei, tutti con le ambizioni personali. Ah, certo, però anche lei dice si è dovuto digerire i ministri loro, come li ha chiamati. Sì, guarda, questo credo che se lo debbano dire anche gli altri, ciascuno di noi si deve digerire gli altri. Nel libro riporto una telefonata con uno di questi ministri del centrodestra, che essendo un ministro che ha delle competenze anche sulla mia città, l'ho chiamato per parlare di alcuni problemi, e poi scherzando, mettendo giù, mi dice ma tu l'avresti mai immaginato 6 mesi fa che in questa scrivania mi sarei seduto io? Ma chi è questo ministro? Chi è? Se senza dire nome ti facciamo solo i cognomi, è Lupi. Lupi gli ha detto questo. Te lo saresti mai immaginato? Ho fatto no, guarda, sinceramente non me lo sarei immaginato. Ecco, volevo ringraziarvi per il gentile pensiero. Avendo smesso di fare campagna elettorale ci avete consentito di arrivare lì. Però oggi noi abbiamo bisogno di recuperare un minimo di credibilità anche delle istituzioni. Cioè, io sono uno di quelli che non vuole litigare a tutti i costi e non crede a uno scontro permanente. Anzi, io sono stato anche spesso attaccato per essere, se vuole, un po' troppo, come dire, urbano e civile nelle relazioni tra destra e sinistra. Ma mi piacerebbe tanto che questo paese tornasse a avere un bipolarismo, cioè che una volta vince il centro-sinistra, una volta il centro-destra, quando l'uno vince l'altro rispetta, fa opposizione e si prepara. Cioè, fino al prossimo giro. Senta, a proposito... ormai 3 anni che non è più così. No, ma è chiaro. Stiamo facendo le finte. Nel libro già il titolo è Oltre la rottamazione. Cioè lei ha detto, forse il termine è stato negativo, forse ho spaventato qualcuno, però rivendico in quel momento di aver usato questo termine. È rottamazione aver votato Napolitano? Cioè bella rottamazione, insomma. Napolitano è stato votato contro il parere dello stesso Napolitano, che ha ceduto soltanto alla fine, perché non avevano veramente, si erano incartati, come si dice nel gioco delle carte, si erano totalmente chiamati in mano. In altri termini, prima hanno detto facciamo un grande accordo e hanno scelto una persona, quale Franco Marini, che oggettivamente non aveva lo standing. Non aveva che lei racconta nel libro, l'ha chiamata, è vero che Marini l'ha chiamata poco prima del voto dicendo aiutami Matteo perché serve un cattolico adesso al Quirinale. Queste cose mi fanno un po' arrabbiare, sa perché? Perché io sono cattolico e mi sforzo di esserlo tutti i giorni, naturalmente questo attiene alla mia sfera personale, ma la mia fede ovviamente incide anche nella vita di tutti i giorni e quindi anche nella dimensione pubblica, ma non è accettabile che si chiedano spazi in nome dell'appartenenza religiosa. Questo è frustrante per la laicità dello Stato, ma paradossalmente è frustrante anche per la confessione religiosa. Cioè non è che lei chiede un posto perché è cattolico, ortodosso, ebreo, buddista o musulmano, agnostico, ateo. Lei chiede un posto perché ritiene di essere capace di svolgere quella funzione lì. È inaccettabile dire al Colle ci vuole un cattolico, non è mica una primaria per i vescovi, questa è la richiesta, il tentativo di fare un servizio alla nazione. Allora, da cattolico cristiano ho detto che secondo me era assurdo arrivare alla strumentalizzazione religiosa come è stato fatto in quella vicenda lì. Vabbè, comunque, ma poi invece Quirinale, i problemi sono stati tanti. Sì, poi abbastanza. Chiudiamo quella pagina che è meglio. Senta, a proposito di questo, lei spesso parla del PD dicendo come loro, no? Tutti notano questo distacco anche dalla classe dirigente. Perché? Guardi che su Twitter la maggior parte delle domande è: ma perché Renzi non si candida segretario e si prende in mano il partito? O altrimenti, se no, se ne va e fa un altro partito. Allora, partiamo dalla fine. Fare un altro partito mi sembra una follia. Credo che di partiti in Italia ce ne siano troppi. Poi non sopporto quelli che si fanno il partitino personale. Vorrei essere chiaro, è conveniente fare il partito personale. Perché? Ti prendi un fracco di soldi con questa storia del finanziamento pubblico ai partiti e li rendi conti come vuoi. Questa è una cosa allucinante. Per uno come me che ha fatto tutta la battaglia sulla trasparenza, spero vivamente che si arrivi al superamento del finanziamento pubblico dei partiti. Però oggi, se tu ti fai un partito, ti prendi un po' di voti, c'hai i tuoi parlamentari, i tuoi rimborsi, i tuoi i livelli organizzativi. Ma con questo, e magari, visto che tanto è un paese in cui nessuno vince mai le elezioni, hai modo di condizionare. Vivacchiare, no? Certo. E perché allora non diventa segretario? Aspetti, mi piace dirvi, questa è la mia, trovo una cosa vergognosa. Io sono dell'idea che ci debbano essere solo due partiti, destra e sinistra, che si debbano rispettare, e poi gli italiani si alliberano. Una volta votano lei che è di sinistra o di destra, e l'altro che è di destra o di sinistra, chi vince vince, l'altro, come dire, fa opposizione. Sì. So che sto dicendo cose che sembrano banali, in realtà lo sono. Beh, in Italia ma no. Ma sono le cose dell'ABC, cioè questo è il punto. Perché non faccio, quindi io non farò mai un altro partito per il gusto di, come dire, soddisfare un'ambizione personale. Quanto al tema del partito, io non credo che tutto si risolva semplicemente dicendo che cosa fa Matteo Renzi. Nel libro ho fatto l'elenco delle cose che mi hanno detto nell'ultimo anno, insulti compresi, salvo poi arrivare dopo le elezioni, dopo che si è visto che forse non era poi così campato in aria ciò che dicevamo alle primarie, arrivare a dire beh sì, però tutto sommato Renzi è una risorsa. E sa che si dice risorsa, sì, in politica, a quelli che si stanno per Veltroni per esempio la vuole il premio, però segretario del PD no. Segretario del PD. Allora, se io adesso facessi la campagna per il segretario del PD, sembrerebbe che tutto l'obiettivo è semplicemente per me quello di mettermi a sedere su una poltrona piuttosto che l'altra. Il problema non è che cosa voglio fare io, il problema è cosa può fare il PD. Il PD è in grado di esprimere delle proposte per il paese o sta soltanto a rimorchio? Io voglio dare una mano al mio partito, che è il PD, perché smetta di preoccuparsi soltanto di quello che fa Berlusconi e provi a ragionare di che cosa abbiamo in mente. Ma secondo te l'ha capito? Secondo lei l'ha capito il PD per ora cosa fare? Il PD è in una fase un po' sotto shock. Quando si sono fatte le primarie, il Partito Democratico e molti militanti erano assolutamente convinti che avremmo vinto. Io credo che lì si sia iniziato a perdere. Sa quando si è iniziato a perdere? Quando si sono respinti gli elettori dai seggi. Quando si è detto no, ma lei magari vota Renzi, non vota Bersani, faccia una cosa, non venga a votare alle primarie. Perché facendo così, blindando le primarie, vinci le primarie, ma poi perdi le secondarie. Come è successo? Si fermi un attimo. Abbiamo dato l'impressione di aver paura della gente. Sì. Ed è una cosa che un politico non si può mai permettere. Forse la prossima volta spero che le regole le facciano diverse. Eccoci qui, ancora 7 minuti con Matteo Renzi, sindaco di Firenze, che ha scritto il libro Oltre la rottamazione, trovate da ieri in libreria. Senta, sindaco, lei scrive nel libro che riguardo a Bersani prova un profondo rispetto umano, e politicamente invece è stato un disastro, possiamo dirlo? Sono espressioni che ho già utilizzato in passato per altri, non vorrei, come dire, replicare, non utilizzerei quell'espressione lì. Però mi riconoscerà che le cose noi a Bersani gliele abbiamo dette in faccia. Invece c'è un sacco di gente che quando Bersani era forte lo sostanzialmente gli dava sempre ragione, non aveva il coraggio di dirgli niente, e dopo che Bersani ha perso lo ha coltellato alle spalle. Insomma, c'è l'usanza tipica di alcuni dei nostri politici di aggregarsi al carro del presunto vincitore, salvo poi essere i primi a scendere quando si vede il carro è fermo. Classico. No, classico. Sì, io non capisco che sia un classico, però fa arrabbiare. Questo sì. Da noia, perché è umiliante. E quindi, rispetto a Bersani, io quello che dovevo dire di Bersani, l'ho detto nel libro, illustro perché secondo me lui ha sbagliato. Cioè, ha sbagliato nel relazionarsi con i grillini, con il Movimento 5 Stelle, ha sbagliato a fare una campagna elettorale all'insegna quando lo smacchiamo il finale della campagna elettorale, sì, del centro-sinistra. Era Bersani che imitava Crozza che imitava Bersani. Cioè, siamo a un livello di comunicazione secondo me sbagliata. Detto questo, come dire, l'insistenza con la quale abbiamo utilizzato certe parole piuttosto che altre a me lascia perplesso, no? Sì. Vabbè, ma questa diciamo è storia anche sa che e sembra c'è un'espressione, sì, che non mi è piaciuta di Bersani. Io lo quale? Dico proprio quando quella radio cronaca, lo dico volentieri, la trasmissione radio come la sua, lei si ricorda che Bersani tante volte diceva, durante la campagna elettorale, noi non abbiamo bisogno dell'uomo solo al comando, che è un concetto anche molto nobile, no? Uno dice, cosa vuol dire? Vuol dire che sta dicendo che dobbiamo essere una comunità, un gruppo, non soltanto il leader, tutto vero, ma dà l'impressione di aver paura di chi ha coraggio, forza. Un uomo solo al comando non è un'espressione neofascista. Un uomo solo al comando è l'espressione bellissima, poetica e romantica di quella straordinaria telecronaca di una tappa del Giro d'Italia del 1949, dove l'uomo solo al comando, che aveva avuto sì l'aiuto della squadra, ma che si era staccato e stava vincendo contro tutti, era Fausto Coppi. Allora, talvolta la sinistra ha paura di chi è in grado di dare, come dire, un contributo in termini di forza, di autorevolezza. Un uomo solo al comando non è un'espressione brutta, è l'espressione di Coppi che vince la maglia e il giro. Senta, invece pare che se ne voglia andare Prodi da questo PD. Farebbe bene, secondo lei, dopo la delusione per la mancata elezione al Quirinale? Spero che non lo faccia. E poi io continuo a dire che ci devono essere soltanto due partiti. L'idea che qualcuno sia contento perché la gente se ne va dal partito mi sembra un po' discutibile, quindi... Spero che non lo faccia. Che non lo farà. Dal punto di vista del, visto che lei parla anche molto di tasse e scrive nel libro, la sinistra la smetta di pensare che le tasse siano belle, no? Questa immagine che ci regalò Padoa Schioppa, in Italia si pagano troppe tasse. Adesso arriva l'aumento dell'IVA, che dice agli italiani? Ci hanno dato un po' dietro l'IMU e mo ci becchiamo l'aumento dell'IVA. Beh, io dico ai fiorentini, perché faccio il sindaco di Firenze, che noi le tasse le abbiamo di... Lo dico perché siccome non capita tutti i giorni di vedere politici che le tasse le abbassano, in quanto vuol dire abbassare l'ambito delle proprie pretese, no? E se lei abbassa le tasse ha meno soldi in bilancio e quindi ha meno possibilità di fare le sue iniziative, giusto? Però non è che le tasse arrivano dalle slot machine per caso, le tasse arrivano dai cittadini e quindi da questo punto di vista noi abbiamo fatto. Io penso che la sinistra debba uscire, perlomeno la sinistra che piace a me, dall'idea che le tasse siano l'unico motore dello sviluppo di un territorio. Mi spiego. In America può avere senso alzare le tasse, ovviamente, a specie ai più ricchi, perché il livello di pressione fiscale è imparagonabile. In Italia si lavora fino al 20 luglio per far contento il fisco. Allora, o capiamo che su questo tema dobbiamo immediatamente dare un segnale, oppure veramente perdiamo il contatto con la realtà. Il fatto di aver intervenuti sull'IMU è naturalmente una cambiale che si paga all'accordo con Berlusconi, questo è evidente. Io credo che sia giusto abbassare le tasse, mi piacerebbe capire da dove partire. Da noi in Firenze siamo partiti dall'IRPEF, l'IMU sulla prima casa quando c'era l'avevamo al minimo, ma l'IMU sulla seconda, terza, quarta, quinta casa era al massimo. E comunque massimo, lei dice è una cambiale pagata a Berlusconi. Gli italiani capiscono bene, no? Non si è mica, i cittadini non sono peggiori dei politici, sono uguali e talvolta cioè, non è chiaro. Dei a volte capiscono. Se lei ha 10 case in Santa Croce, è che è una tasso di più? Perché lei con quelle 10 case vivrà di rendita, mentre il povero Cristo che continua ad andare a lavorare tutti i giorni, no, ha bisogno di avere delle tasse più basse. Certo, sindaco, io sono in conclusione e l'ultimo minuto lo devo dedicare al calcio. No, allora io l'ultimo, quando è venuto qua a trovarci una volta, le fece una domanda per la quale ancora mi crocifiggono su tutti i siti della Juventus, i tifosi, perché lei chiesi secondo lei la Juve ruba ancora, mi insulta. Allora glielo chiederei, secondo lei il Milan ieri ha rubato la Champions League alla Fiorentina? Guardi, la premessa, dica. Dico anche dica. Che poi c'è una tortura nella tortura, perché io naturalmente continuavo a far finta di non crederci. A 10 minuti dalla fine della partita il tifoso ha lasciato spazio al sindaco, immaginando le cose, che il miracolo potesse accadere. Abbiamo attivato l'unità di crisi, che è la struttura tecnica che segue, per aprire lo stadio, per... Non ce n'è stato bisogno. Quello. La della sua, ma dica la verità, ha la sensazione che... Io credo che negli ultimi, da arbitro di calcio, dico che mi è dispiaciuto molto che ci siano stati alcuni errori arbitrali nell'ultima fase, penso a Fiorentina-Roma, lei ricorderà, c'era un fallo di mano di... Ma ieri. Dopodiché le dico soltanto che questo è il terreno sul quale questa mattina ho scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, che è un noto milanista, tutto il mio, come si direbbe, vivo disappunto e la mia contrarietà istituzionale al fatto che vivo, la Serbia non ce l'abbia vivo fatto. Disappunto, dai, diciamo così. Sono diventato veramente un democristianissimo questa cosa. Va bene, intanto la ringrazio per essere stato con noi, Matteo Renzi. Oltre la rottamazione, se volete prendere il libro del sindaco di Firenze edito da Mondadori, grazie per essere stato con noi. Riascolterete tutto su radio24.it. A domani 24 mattino.